notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. E quindi ci risiamo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, vi ho lasciati così un po' alle vostre cose, alle vostre attività, alle vostre vacanze, anche me stessa, e rieccoci quindi di nuovo a questo appuntamento quotidiano, tutti i giorni, ve lo ricordo, da lunedì al venerdì alle 21, per raccontarvi quella che è stata la giornata che ormai a quest'ora si sta chiudendo. Ve la riassumo e poi attraverso alcuni argomenti, diversi ospiti, anche stasera naturalmente. Ci siamo lasciati che la politica era in costante sul movimento, ma da quanto tempo in Italia, diciamo, piuttosto agitata. Ritorniamo che di nuovo la situazione è molto dinamica, se così possiamo dire, da una parte, poi sull'attività concreta, diciamo, un po' meno. Continua a regnare confusione su alcuni argomenti, per esempio sulla tassa relativa alla casa, ultimamente anche sul superbollo sulle auto potenti, poi ne parleremo. Poi c'è un rimescolamento nella maggioranza, oggi sono state le consultazioni da parte di Letta e sentiremo qualcuno degli esponenti della maggioranza per capire a che conclusioni per il momento sono arrivati. Ci sono varie altre notizie, per esempio una strana trasversalità che si è creata sulla cannabis, e altro argomento è che la Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo ha condannato l'Italia perché ancora non ha legiferato sulla possibilità di dare ai propri figli il cognome della madre. Insomma, sono tantissimi gli argomenti, però come al solito partiamo dai titoli dei fatti principali. Dal governo, con Letta che, vi dicevo, dal via alle consultazioni per il nuovo patto di maggioranza, e Renzi annuncia in settimana arriva il Job Act. Maltempo in Stati Uniti e Canada, c'è un gelo polare, 6.000 voli cancellati e ci sono purtroppo per il momento 15 morti. Il triplice omicidio di Caselle Torinese, ritrovati alcuni oggetti delle vittime, è stato riascoltato il figlio, interrogato, al momento non sembrerebbe indagato. E poi la cannabis sulla legalizzazione, si spacca la Lega, premono anche Sell e una parte del PD. Stamina, la rivista scientifica Nature, esprime preoccupazioni profonde sulla sicurezza ed efficacia del metodo, e poi vi ho detto della condanna della Corte di Strasburgo riferita all'Italia per appunto non aver ancora dato il diritto di dare ai figli il solo cognome materno. E poi, per quanto riguarda il cinema, arriva il nuovo affresco dell'Italia targato Virzi, dopodomani nelle sale Il Capitale Umano. Quindi iniziamo, tanto per cambiare, dalla politica, dalle consultazioni avviate oggi, come vi dicevo, dal Presidente del Consiglio Letta. Letta che ha spostato il vertice intergovernativo Italia-Turchia per queste consultazioni, che era in agenda per il 17 gennaio a Istanbul, per lavorare appunto alla definizione dell'impegno 2014, cioè del contratto di coalizione tra le forze politiche della maggioranza di governo. La nuova data del vertice italo-turco verrà poi definita le prossime settimane. Comunque, a conclusione di questa verifica di maggioranza sul programma per il 2014, poi Letta vorrebbe affrontare la questione del rimpasto, che però non piace a Renzi, che si impone però dopo le recenti dimissioni di Stefano Fassina, ex vice ministro dell'economia, e poi dei sottosegretari di Forza Italia che hanno deciso di passare alla posizione. Insomma, un po' di cambiamenti. Fiducioso si mostra intanto Renzi, che da Firenze ha rilanciato sul Job Act. Se la crisi poteva essere un'opportunità, l'Italia l'ha sprecata, ma adesso non si può sprecare anche la ripresa. Parola di Matteo Renzi, che da sindaco di Firenze ospita a Palazzo Vecchio l'inaugurazione dell'85esima edizione di PT Immagine Uomo, e nello stesso luogo, ma in veste di segretario del PD, torna a parlare delle priorità dell'agenda politica: legge elettorale, riforma del bicameralismo, ma soprattutto lavoro, che per Renzi e i renziani vuol dire Job Act, il piano dedicato all'occupazione a cui lavora lo staff del numero uno del Partito Democratico. Sarà presentato tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima. Renzi parte subito da una precisazione. Il Jobs Act non è soltanto, come è stato negli ultimi anni, la discussione sull'articolo 18, su cui ciascuno ha le proprie idee. Il problema del creare lavoro non è semplicemente ridurre la discussione politica a una normativa contrattuale. Anticipa anche i contenuti. Il piano del lavoro si baserà su tre punti di riferimento. Contrasterà, dice Renzi, il costo della burocrazia e punterà a creare posti di lavoro in 6 settori, e il Made in Italy sarà il primo. Stefano Totoro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze. Intanto resta sullo sfondo, come dicevamo, il caso Fassina con le dimissioni dei giorni scorsi. Oggi il dimissionario viceministro dell'economia è stato ospite di Giovanni Minoli a Mix 24 e così è tornato sulla sua scelta. il mio gesto un po' disperato, se volete, è fatto con sacrificio, perché non l'ho fatto con leggerezza, ha l'obiettivo di un'assunzione collettiva di responsabilità, perché ripeto, quindi o tutti o sì al governo e rimpasto, oppure andiamo alle elezioni, ma chiariamoci. Poi non è questione di manuale Cencelli, di per il rimpasto, no, certo, non è quello il punto che pongo. È Renzi giustamente, doverosamente chiede una svolta, perché ha avuto un mandato ampio dagli elettori che l'hanno votato al congresso, si spenda anche con alcuni uomini e alcune donne che quindi questo si chiama rimpasto, diciamo, tradotto giornalisticamente. Si chiama rafforzamento. Dare coerenza ai propri obiettivi. E in tutto questo va detto che la politica riprende con i riflettori puntati sempre naturalmente su Parma, dove è ricoverato l'ex segretario del PD Bersani. Nel pomeriggio c'è stato un nuovo bollettino medico. Altri 5 giorni in terapia intensiva come di prassi per escludere potenziali rischi o complicazioni. Così il direttore generale dell'ospedale di Parma, Leonida Grisendi, nell'ultimo bollettino medico diffuso intorno alle 15.30. La prognosi rimane riservata, ma il quadro clinico per l'ex segretario del PD, colpito da emorragia cerebrale domenica, è stabile. Il decorso sta procedendo bene, ottimista anche il fratello Mauro, medico. È un duro mite, dice, e ce la farà. Non diamo però colpe allo stress da politica. Qualche stress di troppo possa avere generato qualche picco pressorio di troppo, ecco. Però pensiamo tutti ai picchi pressori che deve avere un padre di famiglia che non ha lavoro. Bersani non è più sedato e parla, anche se solo per qualche minuto al giorno, con la moglie e le figlie. Oggi in ospedale anche il ministro per i rapporti con il Parlamento, Dario Franceschini. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E spostandoci all'estero, invece, c'è in primo piano il maltempo in America, in Canada. L'America affronta proprio in queste ultime ore l'ondata di freddo più intensa degli ultimi 20 anni, con temperature record, pensate, in Montana 53 gradi sotto zero, e migliaia sono stati i voli cancellati, e c'è un bilancio al momento di 15 morti. Invece, per quanto riguarda la Tunisia, la nuova Costituzione sancisce l'uguaglianza tra i sessi. Adriana Fracchi ha intervistato la presidente dell'associazione Pontes di tunisini in Italia, Keidan Mejri. È stato sancito il fatto dell'uguaglianza. Allora, le donne tunisine hanno avuto già dal 59 i diritti eguali a quelli degli uomini, sanciti dal codice della famiglia già da Bourguiba dopo l'indipendenza. Quindi questa è una conferma dei nostri diritti, ma si potrebbe dire che si tratta anche di una vittoria della società civile dinanzi a un governo islamista che poteva mettere a repentaglio questi diritti già acquisiti. Invece siamo molto felici di vedere che questa battaglia è stata vinta e che comunque anche la maggioranza islamista abbia varato questa uguaglianza nei diritti e nei doveri tra uomini e donne in Tunisia. Diverso è il discorso della parità. Esattamente, allora in questo momento abbiamo avuto la conferma dell'uguaglianza nei diritti e nei doveri, e vorremmo avere anche la garanzia della parità nell'accesso ai ruoli amministrativi, alle responsabilità politiche, in altri termini chiamate in Italia le quote rosa, nella nuova Costituzione. Questa è una battaglia che vogliamo portare avanti perché abbiamo visto che nella legge elettorale, la prima dopo la rivoluzione, questa legge aveva garantito le quote rosa, e questo ha permesso effettivamente alle donne di essere presenti come capolista o come seconde, almeno nelle liste, con una presenza attualmente nell'Assemblea Costituente molto significativa del 25% delle donne. Quindi è una battaglia che inizialmente non si pensava, ma con questa rivoluzione ci teniamo a portare avanti anche queste quote rosa nella politica, nelle istituzioni. Adesso ritorniamo in Italia con la cronaca, con il triplice omicidio avvenuto a Caselle, vicino Torino, con due coniugi uccisi, anche la nonna di Maurizio Allione, 29enne, figlio appunto di questa coppia uccisa nella villa a Caselle, che è stato interrogato oggi. Sembrava che si fosse vicino a una svolta, però mi sembra, Filomena Greco, che al momento non sia neanche indagato. Ciao Filomena. Sì, infatti. È proprio così, è stato sentito sia domenica che oggi come persona informata dei fatti, come ha chiarito in serata l'avvocato che lo sta seguendo, ed è stata oggi una giornata di indagini, di riscontri su questo triplice omicidio, una giornata in cui le forze dell'ordine e gli inquirenti hanno di fatto ascoltato numerose persone proprio come testimoni o persone informate, ed è tornato nella caserma, come dicevamo, anche il figlio di coniuge Allione, sentito per molte ore ieri pomeriggio dopo il ritrovamento di alcuni oggetti riconosciuti dal 29enne come in uso alla famiglia Allagio. Si tratta di due tazzine, quindi un ritrovamento abbastanza singolare, e accanto un paio di guanti che Allagio ha riconosciuto durante una passeggiata che faceva con i suoi cani. I carabinieri hanno recuperato questi oggetti, che potrebbero a questo punto risultare utili alle indagini, oggetti che potrebbero essere una prova che gli assassini hanno tentato di occultare oppure parte di refurtiva. Dicevamo delle indagini avviate subito dopo il ritrovamento dei corpi massacrati domenica da colpi di arma da taglio dei coniugi Allagio e della suocera che viveva in casa con loro. Oggi c'è stato il secondo sopralluogo dei RIS, che hanno eseguito nuovi rilievi su tracce biologiche, su impronte all'interno della villa, mentre domani il PM Fabio Scevola darà di fatto l'incarico per eseguire l'autopsia necessaria a questo punto per risalire all'ora del delitto, insomma, per ricostruire poi quelle che sono state le modalità dell'aggressione. Si tratta effettivamente di una brutta storia. Al momento non ci sono iscritti nel registro degli indagati, non ci sono moventi, un delitto che resta misterioso, senza responsabili a oltre ormai 48 ore dal ritrovamento dei corpi. Vedremo quali ci saranno, che sviluppi ci saranno domani. Grazie intanto a Filomena Greco. Grazie a voi. Ciao Filomena. E si torna a parlare, se ne parla abbastanza costantemente oggi, per una questione ancora ulteriore del metodo Stamina. Serie e profondi dubbi e preoccupazioni sulla sicurezza e sull'efficacia del metodo emergono da documenti in possesso della prestigiosa rivista scientifica Nature. Lo scrive la stessa rivista, che sottolinea come siano sempre di più i ricercatori italiani di fama internazionale che prendono, scrive la rivista, le distanze da chi si è schierato a favore del metodo Stamina. E poi la sentenza della Corte di Strasburgo: come vi dicevo, i genitori hanno il diritto di dare ai figli il solo cognome della madre, lo ha stabilito la Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo, che ha condannato l'Italia, e quindi esulta la coppia milanese che aveva fatto ricorso già da anni, già dal 1999. Che ne pensate di questo tema, di dare finalmente, di legiferare in Italia per dare, quando lo si vuole, il cognome della madre? E ci sono sempre due canali per voi, per le vostre opinioni o i messaggi: gli sms al 349-238-6666, oppure la pagina Facebook di Effetto Note, per riconoscerla, Effetto Note trattino Roberta Giordano. Ma parliamo anche della vicenda del Maggio Fiorentino. Un taglio ai costi economici, più flessibilità e nessun licenziamento sono questi i termini più rilevanti dell'intesa che è stata raggiunta ieri tra i vertici, del Maggio Musicale Fiorentino e i sindacati. Lo ha annunciato il commissario straordinario della Fondazione, Francesco Bianchi, che al microfono di Paolo Panceri parla di accordo storico. Un accordo storico per le fondazioni liriche italiane, perché è un accordo che tra parte normativa e parte economica introduce delle novità tali che nel mondo delle fondazioni liriche mai si erano viste: la flessibilità, l'abolizione dei passaggi automatici di carriera, la meritocrazia, tutte cose che vengono applicate. Un risparmio di 1.473.000 euro su 5 milioni di euro del vecchio. Consentono finalmente di produrre di più senza, come succedeva prima, produrre perdite. In più abbiamo raggiunto l'accordo sulla nuova pianta organica, che prevede 55 eccedenze che con la legge 112 entrano in mobilità, quindi se le riprenderà il Ministero, per cui alla fine il costo del contratto di lavoro a tempo indeterminato scende di 4 milioni di euro l'anno. Per chiudere lo sport, con Lindsay Vonn che non parteciperà ai giochi di Sochi, è la stessa campionessa americana di sci ad annunciare il forfè a un mese dal via delle Olimpiadi invernali in programma dal 7 al 23 febbraio in Russia. Il motivo è un'operazione a cui si deve sottoporre per un infortunio al ginocchio, e lei per questa cosa si dice comprensibilmente sconvolta. Bene, quindi abbiamo sintetizzato in questo modo la giornata, e poi tra poco cominceremo a entrare nel vivo con gli ospiti. Vi ricordo appunto gli sms al 349-238-6666 su tutti gli argomenti che volete, in particolare magari sulla sentenza di Strasburgo relativa al cognome della madre, oppure la pagina Facebook di Effetto Note. Effetto Note, le notizie in 60 minuti. Quindi abbiamo aggiornato chi viaggia, adesso vi riaggiorno tutti se vi foste messi in questo momento ad ascoltare Effetto Notte, vi ricordo tutte le sere alle 21, vi aggiorno sui fatti principali. Il governo è Letta che dà il via alle consultazioni per il nuovo patto di maggioranza e Renzi che annuncia in settimana arriva il Job Act, il piano del lavoro. Insomma, il maltempo in Stati Uniti e Canada col giro polare, 6.000 vole cancellate e 15 morti. Poi il triplice omicidio di Caselle torinese, ne abbiamo parlato poco fa, ritrovati alcuni oggetti delle vittime, è stato riascoltato il figlio. Cannabis sulla legalizzazione, si spacca la Lega, premono anche SEL e una parte del PD. E poi la Corte di Strasburgo che ingiunge all'Italia di riformare la legge per riconoscere anche le donne il diritto di dare il loro cognome ai figli. E quindi parliamo un po' di politica, dei nuovi mal di pancia, dei bisogni anche insomma di rimescolare un po' le cose. Oggi il Presidente del Consiglio Letta, vi dicevo, che ha avviato una serie di consultazioni con i partiti della maggioranza per lavorare alla definizione di quello che sarà il programma del governo 2014, ovvero il contratto di coalizione tra le forze politiche della maggioranza di governo. Il primo incontro è stato con Scelta Civica e quindi saluto subito, visto che anche ha una certa fretta, la senatrice Stefania Giannini. Buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Segretaria di Scelta Civica, quindi vice praticamente di Monti. E, che cosa vi siete detti, senatrice Giannini? Nessun mal di pancia, ora un po' di languorino a quest'ora, ma non quando vice presidente del Consiglio. Ci siamo detti che il metodo che Scelta Civica proponeva qualche settimana fa, forse è quello che funziona meglio, e ci ha fatto molto piacere che ci siano tempi certi e un percorso definito, cioè entro la fine di gennaio, la settimana che inizierà col 20 dovrebbe essere quella conclusiva, un patto di coalizione scritto e condiviso dalle forze di maggioranza, quindi la possibilità concreta, come avevamo indicato appunto in tempi non sospetti, di mettere nero su bianco, di essere anche molto dettagliati, no? nei punti che sono prioritari, e quindi robustire questo governo e toglierlo un po' anche dalle secche in cui ultimamente almeno a noi era parso. Sono soddisfatta. Interessanti questi punti prioritari, me ne dice qualcuno di Scelta Civica che quindi poi è da condividere con la maggioranza proprio per questo patto? Sì, naturalmente, proprio perché sarà una riflessione condivisa, vedremo quali sono i punti su cui ci troviamo tutti d'accordo, però quello che era il nostro elenco di priorità è riassumibile in modo semplice: misure per la crescita e la competitività, il lavoro prima di tutto, la semplificazione del codice del lavoro, la possibilità di contratti di collocazione che siano un'alternativa a quell'elemosina di Stato che purtroppo è diventata nel tempo la cassa integrazione in deroga, e che quindi siano politiche attive per il lavoro. E aggiungerei tutto il tema fiscale, che insomma per noi insieme alle liberalizzazioni è lo strumento per ridare fiato alle imprese, quindi meno incentivi e meno tasse a partire dall'IRAP. Queste quindi sono le priorità, mi scusi, sì, senatrice sì, Giannini, sì. Ma come, il modo per risolvere queste questioni, per affrontarle, su questo c'è accordo? Dovete ancora un po' parlarvi? Noi abbiamo chiesto al Presidente che la prossima settimana ci sia anche un incontro multilaterale, diciamo, non solo i bilaterali con lui, e che quindi ci sia un tavolo in cui tutti insieme intorno al tavolo, sì, appunto su strumenti e metodi. Io mi auguro che questa proposta possa essere accolta, perché sarà più spedito e anche più sicuro il percorso, no? Se questo avverrà. Ma sa, io credo che insomma, al di là di alcune fibrillazioni interne ai singoli partiti, noi nel nostro piccolo le abbiamo avute tempo fa, il PD mi sembra che dopo la schiacciante vittoria del segretario Renzi debba trovare un assestamento comprensibile a un grande partito, al proprio interno, e quindi una coerenza tra quel che succede in Parlamento e quello che si dichiara poi in televisione o sui giornali, però mi pare che l'intento comune sia quello di dare un respiro a questo governo, perché è il respiro che serve al Paese, quindi di non voler anticipare una consultazione elettorale a maggio che sarebbe devastante, dal mio punto di vista. Ha parlato di fibrillazione del PD, e allora saluto subito l'onorevole Davide Faraone. Buonasera a lei. Buonasera. Che è responsabile del welfare del PD. E a proposito di fibrillazioni, insomma, bisogna dire, ne ha avute molte il centrodestra, tanto che si è spaccato per qualcuno drammaticamente, per altri una scelta di facciata. Ma insomma, al di là di questo, anche voi, diciamo, siete abbastanza terremotati ultimamente, Faraone, no? Tra Fassina che si è dimesso, il ciclone di Renzi, tutti questi, come possiamo dire, indiscrezioni su si coalizzano oppure confliggono tra loro Letta e Renzi, è una situazione abbastanza, poi ci mancava anche il povero Luigi Bersani, che però questa è una questione di salute, una cosa sua. A che punto state, Faraone, col PD? Io sinceramente vedo nel PD esclusivamente un terremoto tipo benefico, nel senso che la questione Fassina la reputo una piccolissima scossa di assestamento. Quello che invece è l'azione che stiamo portando avanti con col nuovo gruppo dirigente del Partito Democratico è un terremoto benefico per il Paese, nel senso che il Paese è stato per troppi anni fermo. E c'è stato nei partiti un atteggiamento parecchio conservativo della situazione attuale, sia in materia di welfare, sia in materia di riforme istituzionali che di riforma elettorale. E oggi stiamo noi procurando una scossa che possa essere utile per cambiare le cose e per fare quelle riforme che in questi anni non sono state fatte. E Renzi sta mettendo al servizio del Paese un'azione di innovazione che ha avuto la forza e il sostegno di milioni di italiani che sono andati a votare alle primarie e a votarlo come segretario del Partito Democratico. Faraone, io le chiedo, ha sentito di questa cosa che insomma mi sembra quantomeno discutibile, se non altro, che il governo avrebbe intenzione di bloccare retroattivamente degli scatti di anzianità degli insegnanti, chiedendogli questi 150 euro che credo fossero al mese, quindi per tutto il 2014 retroattivamente glieli scalerà dallo stipendio. A me, se è così, la cosa mi sembra bizzarra. Che ne pensa lei? Lei quando dice bizzarra dice una parola che è molto tenera rispetto a quello che è il mio pensiero. Io credo che sia una grande fesseria, che non si può governare il paese con i tecnici del MEF che chiusi nelle stanze fanno provvedimenti guardando soltanto i conti e non guardando alle ricadute sociali e le scelte che compiono. E non solo si chiede di bloccare questi scatti che erano stati pattuiti in passato con gli insegnanti, ma c'era in un più patto. Si chiede di ritornare indietro i soldi presi negli anni passati. Quindi vuol dire che siamo proprio alla follia. Devo dire che nel governo c'è chi ragiona, come la ministra Carrozza, che ha contrastato insieme a noi questa scelta del MEF. Pensiamo che debba intervenire anche il Presidente del Consiglio. Ho letto di una nota del MEF che continua a sostenere la bontà delle proprie tesi. Noi crediamo che il governatore, che il Presidente del Consiglio Letta debba intervenire ed evitare che dei tecnici curino e governino questo e pensino di governare questo paese semplicemente in virtù di numeri, senza pensare al ruolo sociale svolto agli insegnanti, al fatto che percepiscono stipendi da fame nonostante il servizio che compiono. Quindi io credo che ci voglia un po' di buonsenso e che bisogna che la politica ritorni in campo, ritorni protagonista e la guida del paese. Che ne pensa di questa misura, senatrice Giannini? Ma guardi, stavo ascoltando con attenzione l'onorevole Faraone, che saluto, e abbiamo trovato già un primo punto di contatto, di condivisione del serio sul contratto. No, io sono anche appartenente a quel mondo, al mondo dell'istruzione, dell'università, insomma, quindi veramente credo che al danno la beffa non si possa aggiungere. Non ho seguito tecnicamente la questione, ma se ben capisco è, come giustamente è stato detto dal collega, una decisione di tipo tecnico contabile che poi ha ricadute insomma molto pesanti e che politicamente mi pare, così come è stata presentata, inaccettabile. Anche perché si dice sempre del patto che si fa, per esempio quando si fa lo scudo fiscale per far rientrare, no, i soldi dall'estero, si è fatto un patto, quindi dice ci deve essere privacy, non si può poi aumentare questa percentuale, mentre con altre categorie un po' più deboli questi patti si rompono, penso agli esodati, penso in questo caso agli insegnanti, ma mi auguro che non vada avanti insomma questa proposta. Senatrice Giannini, lei ha detto oggi in un'intervista sul Foglio, se non sbaglio, che nei rapporti tra Renzi e Letta c'è anche una possibile terza soluzione, in teoria. Qual è questa terza soluzione? Ma era un po' ragionare per iperbole, no? Se vogliamo, tanto la retorica serve anche in politica. Però in realtà volevo dire questo, e lo ripeto con serenità e convinzione. A me pare che il segretario Renzi possa essere un'energia propulsiva che va a servizio, come ha detto Faraone, del Paese, se e soltanto se c'è una chiarezza, in questa fase politica almeno, no, tra la sua linea politica, quella del suo partito, e il governo che è presieduto da un esponente autorevole del suo stesso partito. Se c'è un'ambiguità, come in questi giorni è apparso, non solo a me certamente, tra le posizioni del governo e le posizioni del maggiore azionista di maggioranza, allora si può anche sospettare che l'obiettivo sia un altro. Ecco, ma io credo che poiché le elezioni anticipate, l'ho detto e lo ripeto, avrebbero un costo per l'Italia veramente smisurato, che non possiamo e non dobbiamo permetterci, se veramente non ci fosse un'intesa tra il vertice del PD e il capo del governo, insomma, perché no, allora assumersi responsabilità terminali, no, e sostituire in corsa il pilota. Però la ritengo una sorta di provocazione, ecco, proprio per mettere in evidenza il fatto che ci vuole coerenza, ci vuole chiarezza, ci vuole anche coesione, credo, tra il maggior azionista di questo governo, che è anche e soprattutto il governo del PD. Davide Faraone, molto sinteticamente, che ne pensa di questa terza possibilità di Renzi che prenda in mano il governo mantenendo questa legislatura? Molto sinteticamente. Presidente del Consiglio Matteo si sta candidando a sindaco di Firenze, lo annuncerà in questi giorni, quindi troppi credo incarichi, che tutto diciamo. Quello che si svilupperà in questa fase sarà molto più scontato di quello che appare. E invece, ultima domanda, avete sentito di questa trasversalità particolare sulla legalizzazione della cannabis? C'è stata una spaccatura della Lega, mi pare il deputato Fava ha detto la legge Giovanardi è liberticida, poi è stato smentito da altri esponenti della Lega. Lei, Faraone, che ne pensa? Sarebbe favorevole alla legalizzazione della cannabis? Ma io penso che c'è una legge Giovanardi assurda, che mette sullo stesso piano l'utilizzo delle droghe pesanti e l'utilizzo delle droghe leggere, e credo che questo sia, e quindi anche la penalizzazione allo stesso modo dell'uno e dell'altro caso, e credo che questo sia un fatto che pensa di assolutamente, non tiene conto della situazione di fatto oggettiva, e al tempo stesso cura, tra virgolette, il fenomeno soltanto da un punto di vista repressivo, per cui che va modificata la legge su questo punto sicuramente. Ma che vada legalizzata? La cannabis? Che vada legalizzata? È stato un momento scioccante, cioè, questa domanda, poi magari lo recuperiamo a Faraone. Lei, Stefania Giannini, che ne pensa? Ma sa, superficialmente questi temi si affrontano sempre male, ecco. Gli altri paesi che hanno fatto questa scelta, bisognerebbe vedere se veramente hanno avuto come risultato una diminuzione, no, dell'uso delle droghe leggere. Io partirei da rivisitare una legge che, sono d'accordo, è assolutamente carente per i motivi che sono stati già detti, però sulla legalizzazione sarei un po' cauta, francamente, così a caldo, ecco, senza una riflessione approfondita. Io mi scuso, ma devo salutarvi. Sì, sì, no, ma la stavo proprio infatti salutando, ecco. E la ringrazio senatrice Giannini. Mi raccomando, buon lavoro e buon anno, e anche a Davide Faraone, che non siamo riusciti evidentemente a recuperare, intanto sapete come funzionano i telefoni, specialmente in diretta. Colgo l'occasione per prendere anche qui una pausa, poi torno naturalmente con altri argomenti. E per voi anche la possibilità, se volete, di esprimere le vostre opinioni al 349-238-6666, oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte, dove vedo già dei vostri pareri sulla sentenza della Corte di Strasburgo sul diritto delle madri di dare il proprio cognome ai figli. Perfetta Notte. Le notizie in 60 minuti. Eccomi di nuovo con voi, e se avete iniziato adesso ad ascoltare Perfetta Notte, intanto vi ricordo che è ripreso da oggi e tutte le sere dalle 21, ma vi ricordo anche quali sono stati i fatti principali di oggi. Ne parlavamo poco fa proprio con la senatrice Giannini della Scelta Civica e con Faraone del PD, con il governo, con il presidente del Consiglio Letta, che dà il via alle consultazioni per il nuovo patto di maggioranza con Renzi, che annuncia in settimana arriva il Job Act, il nuovo piano per il lavoro. E poi il maltempo che colpisce in particolare Stati Uniti e Canada, dove c'è un gelo polare, c'è un bilancio di 15 morti e 6.000 voli cancellati. Il triplice omicidio di Caselle Torinese, per la cronaca, ha ritrovato alcuni oggetti delle vittime, è stato riascoltato il figlio. E poi la Corte di Strasburgo che ingiunge all'Italia di riformare la legge per riconoscere anche alle madri il diritto di dare il proprio cognome ai figli. Adesso invece vi lascio a un nuovo appuntamento qui di Effetto Notte, che è Europa 24 dentro Effetto Notte. In questa puntata si parla dei 7 punti per l'Europa dei 5 Stelle, il programma del Movimento 5 Stelle per ripensare insomma ai trattati europei. Il punto fondamentale è il referendum sull'euro, ma anche l'abolizione del Fiscal Compact. Europa 24 Notte. Verso le europee. Buonasera, qui a Montecitorio per l'Europa, Elisabetta Fiorito. Il Movimento 5 Stelle presenta 7 punti per l'Europa. Chiediamo a Laura Castelli, deputata del Movimento 5 Stelle, quali sono questi 7 punti? Sicuramente si inizia dal referendum sull'euro, perché questo paese non ha mai detto di essere favorevole all'entrata in Europa e poi con una moneta unica come l'euro. C'è l'abolizione del Fiscal Compact, perché noi crediamo che questa zavorra dei paesi come l'Italia e come altri paesi non possa che far male e azzoppare l'economia di un paese che invece potrebbe far molto di più e molto meglio. C'è l'adozione degli eurobond, che sono uno strumento che potrebbe essere utile per finanziare questo paese in una politica europea fatta però come andrebbe fatta, non come l'Europa oggi. Quindi, ma gli eurobond, la Merkel è contrarissima, voi riuscirete a convincerla semmai? Quello che è stato detto finora dell'eurobond è stato fatto pensando solo allo strumento finanziario e non alle politiche che questo doveva finanziare. Noi crediamo che l'eurobond possa essere usato come metodo di finanziamento, ma che debba andare a finanziare quello che i paesi europei davvero vogliono: lavoro, infrastrutture, quelle che ai paesi servono, e non grandi opere. Alleanza tra i paesi mediterranei per una politica comune, che cosa vuol dire? Significa che si parte dal presupposto che ci sono molti paesi che hanno una politica comune, pensiamo a tutti quelli del Mediterraneo per esempio, come a quelli del nord. Ovviamente ogni paese punta su cose simili ad altri paesi, perché è innegabile che l'agricoltura in alcuni paesi è molto più sviluppata e più finanziata, in altri meno, per cui l'idea è quella di cercare di fare delle macro aree, almeno si riescono a fare politiche strutturali di un certo tipo. Investimenti, innovazione, nuove attività produttive esclusi dal limite del 3% annuo di deficit di bilancio. Sì, ad oggi ci sono dei paesi che non rispettano il 3%, io dico perché l'Italia invece non lo può fare. Il Movimento 5 Stelle è l'unico movimento che fino ad ora ha detto che il 3% è una misura pazzesca, che non ha senso rispettare un limite di deficit di bilancio di questo tipo, quindi noi siamo convinti che questo 3% vada bucato. E poi chiaramente finanziamenti per le attività agricole di tutti i consumi nazionali interni, perché questo paese si deve chiedere su che cosa vuole puntare. Noi siamo un paese che non ha un piano industriale, un piano economico da troppi anni, un piano energetico da troppi anni, quindi crediamo che le attività agricole siano il primo punto. Abolizione del pareggio di bilancio. Non temete che con il nostro debito pubblico questo punto possa essere un po' controverso? Inserire il pareggio di bilancio per molti dei premi Nobel del mondo voleva dire mettere una camicia di forza all'economia dei paesi europei, e così è stato, ossia paesi che si trovano a finanziare delle leggi senza della moneta reale, ma che fanno altro debito. Il pareggio di bilancio non serve, si può spendere bene, spendere dove serve, senza mettere il pareggio di bilancio. Allora ringraziamo la deputata Laura Castelli, un saluto da Elisabetta Fiorito qui da Montecitorio. Europa 24 Notte, in collaborazione con Euronet Plus. Rieccoci di nuovo insieme, quindi lasciamo da parte al momento l'Europa, in realtà con un argomento che l'Europa la riguarda moltissimo da vicino, infatti penso di riprenderlo nei prossimi giorni questo argomento. Avete sentito, ve lo dicevo dall'inizio e nei titoli, la Corte Europea che contro l'Italia, bacchetta l'Italia, dice un diritto dare ai figli il cognome della madre. È la sentenza proprio della Corte di Strasburgo che ingiunge quindi al nostro paese di riformare la legge per riconoscere alle madri il diritto di dare ai figli il proprio cognome. Questo deriva da un ricorso che già a fine anni 90 fecero una coppia, due coniugi, per dare il cognome della madre alla propria figlia, e è arrivata a questo punto dopo anni questa sentenza. Allora, intanto saluto Aurelio Mancuso. Buonasera Aurelio. Buonasera, buonasera a voi. Presidente di Equality Italia, che è un'associazione molto conosciuta che si occupa da tempo di diritti civili, di parità, di pari dignità, è così? Sì, è così. Noi siamo una rete trasversale dei diritti per tutti. Ecco, a proposito dei diritti, per esempio, di dare ai figli il cognome della madre, non ci sono in Italia, in Parlamento, delle proposte di legge? Già io mi ricordo, se ne parla da anni di questa cosa, che giacciono probabilmente in qualche cassetto polveroso sotto qualche tappeto. Mi pare che ce ne siano state, no, negli anni. Allora, ci sono, le leggi sono state presentate già dalla legislatura del 2001, dall'allora deputato Pisapia, oggi sindaco di Milano, e da altri, proprio per dare la possibilità ai genitori di scegliere se attribuire o il cognome del padre o della madre o di entrambe. Questa, diciamo, è la proposta principale. Attualmente esiste in questa legislatura una proposta di legge depositata dalla deputata Laura Garavini, eletta nel collegio estero per il PD, ma sottoscritta da diversi esponenti di diversi partiti, che appunto va incontro alla sentenza di oggi della Corte dei diritti dell'uomo, europea dei diritti dell'uomo, ovvero la possibilità della scelta da parte dei genitori del cognome da attribuire ai figli. È una richiesta, tra l'altro, che è stata già sollecitata più volte dall'Europa e anche dalla Corte Costituzionale con diverse sentenze. Dimmi una cosa, Aurelio Mancuso, a parte che stavo guardando anche adesso i messaggi che arrivano dalle ascoltatrici e dagli ascoltatori alla pagina Facebook di Effetto Note, poi vorrei sentire appunto il tuo parere su alcuni di questi commenti. Scrive Brunello: speriamo che i figli non paghino le conseguenze di inutili litigi su quale cognome portare, materno o paterno, che siano scelte motivate consapevolmente. Riccardo scrive: il timore è che venga strumentalizzata da gruppi di agguerriti femministe, già se l'immagina con la lancia. Riccardo: noi uomini stiamo diventando, secondo alcune, meri strumenti di riproduzione. Se viene recepita nel modo giusto, che sia di buon auspicio, dice, per una parità di diritti. Penso che sia recepita nel modo giusto per la parità di diritti. No, ma infatti, diciamo, comprendo che i commenti sul web sono sempre anche un po' provocatori. Il tema è questo: c'è un diritto di famiglia riformato in Italia già dal 1975, che poi ha avuto diverse evoluzioni. Già oggi non esiste più la patria potestà, ma la potestà genitoriale, ovvero la potestà è uguale tra i due genitori. Questo cosa significa? Significa che anche questo tipo di questione, cioè del cognome, non può essere attribuito solo automaticamente all'uomo, perché una volta era la famiglia patriarcale, oggi è una famiglia paritaria, per fortuna. È cambiato molto in questo mondo negli ultimi decenni. Allora, la norma che si prevede non dice che uno deve scegliere, dice che i genitori possono scegliere, perché il tema è sempre la libertà di scelta. Già oggi i figli possono fare ricorso alle prefetture per vedersi attribuito il cognome del padre o della madre, eccetera. Sono, come dire, procedure molto complesse, per cui non c'è, diciamo, un automatismo di diritto. Mentre stasera giustamente il Presidente del Consiglio Letta ha detto: no, sì, è una norma giusta che c'è in tutta bisogna Europa, adeguare le leggi italiane. Bisogna adeguare. Ma guardate, è una questione normalissima, nel senso che negli altri stati europei il diritto di scelta non ha stravolto niente. Chi vuole si mantiene il cognome del padre, chi invece vuole nella famiglia si decide insieme. Ma guardate che è molto bello, perché è la rappresentazione della co-responsabilità genitoriale, che è una delle conquiste, non delle femministe, è una conquista di civiltà delle democrazie liberali degli ultimi 50 anni. Ti leggo ancora qualche messaggio, sempre sulla pagina Facebook di Effetto Note. Andrea scrive: ma che succede se non c'è accordo nella coppia? Prenderebbe in automatico quale nome? A me sembrerebbe più coerente a questo punto il doppio cognome, come ad esempio in Portogallo. Mi pare che succeda anche in Spagna, ma poi anche nei prossimi giorni ritornerò su questa questione. Allora, nel caso non ci sia accordo, è prevista la mediazione del cosiddetto giudice di pace nella legge, nella proposta di legge, che in automatico può prevedere l'attribuzione di entrambi i cognomi oppure la ragione uno all'altro, ma di solito nella legge, come accade nella legge portoghese, si va all'attribuzione similare, cioè dei due cognomi entrambi. Attenzione, questa appunto non è una richiesta che proviene adesso un po' bislacca appunto da qualcuno che si è messo qui a fare una nuova. È una questione che è coerente con il nostro ordinamento familiare attuale in Italia. Manca, queste e alcune altre questioni, tra cui le unioni civili, ma si aprirebbe un'altra questione, mancano ancora alcune norme che l'Italia non ha rispetto agli altri paesi europei, e quindi questo è un gran bene. Guardate, le firme sottoscritte nel nostro sito sono per la stragrande. C'è una petizione, no? Una petizione su Equality. Una petizione su www.equalityitalia.it. Sono la stragrande maggioranza di donne, e alcune scrivono le loro storie dicendo appunto: io volevo e non l'ho potuto fare, altre vicende, diciamo, anche dolorose che hanno sofferto in questi. Che si perde il proprio cognome e non poterlo trasmettere. Però c'è un uomo, Domenico Alberto, per esempio, che scrive: nulla da eccepire, la cosa triste è che serviva una sentenza della Corte per arrivarci. In Italia le cose di buon senso non si riescono mai a fare per iniziativa. Infatti la questione è questa, che le forze politiche sono riuscite anche a dividersi nelle scorse legislature anche su questo tema, perché c'erano anche altre proposte di legge più restrittive di quella che oggi è stata presentata all'inizio della legislatura. Io credo che oggi come oggi penso che finalmente queste divisioni di tipo ideologiche siano ormai superate, e che si possa benissimo rispondere non a un femminista o un rivoluzionario, ma a un presidente della Corte Costituzionale che l'anno scorso nella sua relazione annuale ha detto: questo è un retaggio della vecchia famiglia patriarcale che non ha senso che continui a esserci. E così sono in linea anche quello che scrivono, questo che dici, Francesca Maria, che scrive: un altro passo in avanti per le donne, ma anche per tanti uomini, voglio sperare. Laura, che dice: cara Roberta, domani domanda retorica, siamo ultimi maschilisti e vigliacchi, qualche passo allora ci auguriamo con questo di farlo. Aurelio Mancuso, cosa toglie al genitore maschio il fatto che il figlio assuma anche il cognome della madre? Cosa toglie? Io credo che invece aggiunga, su questo che bisogna ragionare, non sul fatto di togliere. L'ultima domanda, Aurelio Mancuso, ma questa poi, cioè, l'Italia in che tempi è, tra virgolette, costretta ad adeguarsi a questa sentenza? Allora, adesso la sentenza è stata depositata, ci sono 3 mesi di tempo per lo Stato italiano di ricorrere contro la sentenza. Io spero che questo non avvenga, visto che lei ti ha detto così, ecco, d'accordo. Spero che non avvenga. Dopodiché l'Italia si deve, nella sentenza è contenuto entro quando l'Italia si dovrà adeguare, perché per esempio l'ultima sentenza che riguarda l'Italia, che sulla riforma, sulla questione carceraria, gli ha dato un anno dal 27 di maggio del 2013, quindi entro il 27 di maggio del 2014 deve... Qualche soluzione bisogna trovarla. E anche in questo ci sarà sicuramente una data. Poi seguono delle cosiddette sanzioni. Attenzione, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è una corte a cui gli Stati hanno riconosciuto questa potestà, quindi lo Stato... L'Italia può fare anche finta, ma andrebbe, diciamo, come dire, a ledere uno dei principi fondamentali della stessa Corte. Cioè, la Corte, quando gli si è data la possibilità di costituirsi, gli si è riconosciuta la giurisdizione anche sul nostro paese. Chiarissimo, ti ringrazio Aurelio Mancuso, buona continuazione. Grazie, buon anno a voi, anche a te. Buonasera. Ciao. Adesso ci fermiamo per aggiornare chi sta viaggiando, cioè, quindi ci fermiamo per aggiornare chi invece va, e poi tra pochissimo parliamo anche di auto da un punto di vista particolare. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E adesso adesso vi ricordo giusto i fatti principali di oggi, come quasi dopo ogni pausa. Letta, il Presidente del Consiglio che ha avviato oggi le consultazioni per il nuovo patto di maggioranza per capire insomma quale potrà essere il programma del 2014 del governo, con Renzi che annuncia che in settimana ci sarà il piano per il lavoro. E poi il maltempo che colpisce in particolare Stati Uniti e Canada con un gelo polare, pensate, si arriva anche a meno 53 gradi e ci sono stati 6.000 voli cancellati e un bilancio di 15 morti. E poi il triplice omicidio di Caselle Torinese, sono stati ritrovati alcuni oggetti delle vittime, il figlio dei coniugi uccisi è stato oggi a ascoltato, interrogato, per il momento non è indagato. La Corte di Strasburgo, come abbiamo sentito, ingiunge all'Italia di riconoscere anche il diritto delle donne di dare il proprio cognome ai figli. E poi Stamina, la rivista scientifica Nature, esprime preoccupazioni profonde su sicurezza ed efficacia del metodo. E per quanto riguarda il cinema, arriva il nuovo affresco dell'Italia, una commedia che sconfina nel noir, ambientata in Brianza, tra ricchi, autentici e aspiranti tali, è il titolo Il Capitale Umano di Paolo Virzì, che è in uscita il 9 gennaio, quindi tra due giorni. Un altro film amaro, come ormai capita sempre più spesso ai registi italiani, la crisi economica, i valori che adesso sono dominanti, dice Virzì al microfono di Marta Cagnola. Solo un cieco non lo potrebbe notare rispetto a quando io ormai sono un vecchio regista, nel senso che sono al mio undicesimo film e sono ho iniziato a fare il regista nel 93 e abbiamo visto trasformarci lo scenario davanti. Il cinema è una delle tante cose in difficoltà rispetto a un paese che è in difficoltà sui temi del lavoro, sui temi della formazione, dell'istruzione, delle pensioni, quindi non possiamo certo permetterci il lusso di attirare l'attenzione sui nostri problemi, ma semmai cercare di cavarcela come meglio possiamo. Io non sono pessimista perché vedo tanti talenti. E meno male che almeno Paolo Virzì non è pessimista. Adesso, a proposito di un po' di confusione che ogni tanto fa il governo, parliamo del superbollo sulle auto potenti. C'era notizia oggi che saliva sui titoli dei giornali online del governo, che aveva intenzione di cancellare il superbollo appunto sulle auto più grandi, più potenti. Poi è arrivato in serata invece la smentita: non c'è nessuna notizia del genere, nessuna norma è prevista per cancellare il superbollo, è un'indiscrezione ma che non viene assolutamente confermata. E allora c'è il nostro esperto del Sole 24 Ore, Maurizio Caprino. Ciao Maurizio. Buonasera. Che ci chiarisce un po' l'idea, anche perché questa tassa, questo superbollo, aveva un suo motivo, era stata voluta dal governo Monti, da Monti, per una questione di equità, per far pagare un po' di più ai più ricchi, poi però mi sembra che sia fallita un po' subito sul nascere. Si vedeva subito che era fallimentare, diciamo che era stata una misura istituita poco più di 2 anni fa per in una contesto del paese che era molto particolare, c'era bisogno di eroi, c'era bisogno di sbandierare l'equità, lo stesso contesto che poi ha portato un povero ufficiale di una capitaneria di porto come De Falco, con la famosa frase, no, parlando con Schettino, no, ce l'ho fatto idolatrare, in realtà lui era solo uno che stava facendo il suo dovere, esatto, e in questa aria che tirava in questo paese si è pensato per un momento di convincere l'Italia che il fisco sarebbe stato più equo e giusto, che sarebbe fatto lotta agli evasori semplicemente facendo pagare di più chi aveva un'auto potente. Ma le auto potenti, che cosa si intende tra l'altro per auto potente? Auto potente vuol dire sì, auto di una certa potenza, parliamo superiore ai 185 kW, che sono 250 cavalli, non sono uno scherzo indubbiamente, però non è come tutti quanti noi pensiamo, cioè la grande auto di lusso che costa tanto, perché molto spesso proprio queste auto potenti dopo i primi 2, 3, 4 anni si svalutano terribilmente, quindi ci sono tanti appassionati che sono squattrinati, potrebbero comprarsi nuova un'auto molto di categoria molto inferiore, però si permettono tra virgolette il lusso di comprare queste usate. Auto usate, esattamente, e questi sono stati particolarmente colpiti. Ma queste, scusami la curiosità Maurizio, ma una volta che queste macchine così potenti sono usate, saranno di seconda mano, non penso di terza. Anche terza. Quindi sì, possono costare molto molto meno e alla fine come costo non essere più proprio un'auto di assolutamente lusso, sì, perché intanto pagano già di bollo normale e di assicurazione delle cifre spropositate, quindi un appassionato veramente fa dei sacrifici economici. E poi pensate a cambiare le gomme, metterci la benzina, generalmente se lo possono permettere persone che non fanno tanti chilometri, quindi si tolgono questo sfizio, magari togliendosi anche tra virgolette il pane di bocca, ecco. Quindi non sono quelle persone che nel nostro immaginario sfrecciano con le SUV seminuove a Cortina, insomma. Qualcuno sì, però no, assolutamente sì, usate, però sì, però quelli sono poi dei furbi che hanno fatto hanno aderito anche a delle proposte che sono state fatte sul web in maniera proprio senza ipocrisie. Dicevano: dacci la tua auto, noi te la immatricoliamo all'estero, quindi le tasse, quelle poche tasse che ci sono da pagare all'estero, te le paghi, sfuggi al superbonus italiano e continui a usare la tua auto in Italia come se niente fosse. Quindi, infatti, flop. mi è parso di vedere spesso per Milano, mi pareva di vedere che tutti i grandi SUV, le macchine importanti, avessero delle targhe straniere. Sì. Dico, com'è che sono tutti questi stranieri che hanno una macchina importante, gli italiani no? Invece questo è un escamotaggio. Erano italianissimi, era un problema che già si vedeva 15 anni fa in maniera molto più contenuta. Chiaramente con il superbollo ha avuto un'esplosione, quindi non si può neanche dire che il governo non sapesse che andava incontro a questi rischi. Chi aveva occhi per vedere già poteva capirlo. Ma adesso, non per spiegare a chi avesse mezza intenzione, insomma, ma come funziona esattamente questa cosa? Cioè, si comprano all'estero queste auto per avere poi la targa estera o si immatricolano? Ma semplicemente anche l'auto che hai tu, semplicemente simuli la vendita a questa società estera che poi la immatricola nel suo paese di residenza, la immatricola a suo nome e te la lascia in uso. Però a quel punto va in giro con la targa straniera, tra l'altro spendi molto meno di assicurazione perché l'Italia ha le tariffe assicurative più alte d'Europa, sfuggi al redditometro, che è un altro beneficio non da poco, e poi sfuggi anche al superbollo. Quindi diciamo che il cerchio viene assolutamente chiuso, è perfetto. Quindi a questo punto tu dici, quindi era fallita già sul nascere questa legge, c'è bisogno allora che il governo attuale faccia finta di non abolirla o tanto vale che la faccia fuori? No, allora sicuramente la cosa è allo studio, quindi anche la smentita del governo è da interpretarsi come una mezza smentita. La cosa è un'ipotesi, diciamo, allo studio da mesi. Ci sono stati anche personaggi del governo come il vice ministro all'economia Casero che si è impegnato ad abolirla, però evidentemente non ci sono ancora i tempi tecnici. Pensate, tra l'altro è cominciato adesso l'anno, quindi c'è gente che già dovrebbe pagarlo a gennaio questo superbollo, quelli che hanno la scadenza del bollo normale in gennaio. Allora a questo punto cosa succede? Se non lo aboliscono nei prossimi giorni, e questo sicuramente non avverrà, chi ha pagato a gennaio dovrebbe in teoria dovrebbe pagare a gennaio e poi abolendolo dopo in febbraio per esempio glielo dovremmo rimborsare. È una complicazione tremenda, per cui io dico che ragionevolmente l'abolizione avverrà in corso d'anno ma avrà effetto dal 2015 per tutti, per non creare dei problemi, delle complicazioni che peraltro già ci sono, perché l'Agenzia delle Entrate per esempio a 2 anni di distanza non ha ancora trovato un modo di pagamento agile. Bisogna pagarlo con F24 e non con l'F24 normale ma con quello tra virgolette elementi identificativi. Un macello, su tutto. Senti, ma per superbollo, per curiosità, che cosa, nell'ordine di quali cifre siamo? Beh, sono cifre importanti, sono 20 euro per ogni kilowatt eccedente i 185, quindi c'è gente che arriva a pagare anche sberle di 3.000 euro in totale. Grazie Maurizio Caprino. Arrivederci. Ciao Maurizio. E adesso invece vi dicevo prima, parlando delle notizie della giornata, di Lindsay Vonn che non parteciperà ai giochi di Sochi. La stessa campionessa americana che lo ha annunciato il suo forfè un mese al via delle Olimpiadi invernali in programma dal 7 al 23 febbraio in Russia. Sentiamo perché. Meno un mese ieri e la stella sulle Olimpiadi d'inverno a Sochi è sempre meno brillante. Un sacco di nuvole intorno, dagli impianti figli della megalomania russa alle questioni di sicurezza che per la verità ormai da tempo aleggiano su ogni edizione dei giochi, estivi o invernali che siano. Corollario ormai ineliminabile quando il mondo si ritrova nello spazio ristretto dello sport. Ma ora anche questioni puramente agonistiche. Una delle non moltissime superstar globali dello sci non ci sarà. La biondissima, bellissima, fortissima Lindsay Vonn rinuncia all'Olimpiade, lo ha annunciato via social network, accompagnando l'ufficializzazione con l'aggettivo devastated. Devastata, povera Lindsay, come il suo ginocchio che non potrà guarire in tempo. 29 anni non sono pochi ormai per l'agonismo esasperato, anche se sei la più forte del mondo sugli sci con 59 vittorie in Coppa del Mondo che appartengono alla storia. Fate le giuste proporzioni, un po' come se Bolt rinunciasse ai 100 olimpici. Il futuro di Lindsay Vonn sarà un'operazione e la speranza, dice lei, sono i mondiali in casa, a Vail, in Colorado, nel 2015, molto oltre l'orizzonte dei cinque cerchi sempre meno attraenti. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, direi allora che a questo punto possiamo lasciarci, naturalmente, per darci appuntamento domani, che è un altro giorno, ma sarò sempre qua a raccontarvi com'è andata la giornata. Intanto ringrazio Cristian Goldoni, alla parte tecnica c'è Roberto Scaltritti, da Roberta Giordano, buon effetto notte a tutti.